Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Allevate polli? No, no, qua ce li portano già grandi. Ringraziando la Madonna, noi li ammazziamo soltanto. Ah, da questa gallina, da. Guarda, beh, guarda quanto è bello, guarda. Vieni, vieni, ti voglio far vedere come funziona, vieni. Certo, ogni lavoro va fatto con amore. Il lavoro è grazia. Vedi? Qua si infila la testa, traccata. Attenzione che tu puoi schiacciare pure la mano. E questa è la macchina. Guarda quanto è bella, a vapore. Qua invece si spennano. È una festa. E quando la sera hai finito il tuo bravo lavoro, te ne puoi andare a dormire con la coscienza tranquilla, in grazia di Dio e ringraziando la Madonna. Vedi, anche spennate, sti creature hanno sempre la loro umanità. Questa è una delle sequenze di un film che a sua volta merita attenzione, che però gli italiani dovrebbero tenere più fisse nella loro mente tutte le volte che discriminano, che danno del diverso, dello straniero, della persona comunque infima rispetto alla loro condizione sociale, esistenziale, anche territoriale, a un altro essere umano. È il film in cui viene rappresentata la terrorunicità anche come condizione non soltanto dello spirito ma anche fisica. Nino Manfredi, emigrato in Svizzera, entra in contatto con una comunità di meridionali, ma particolarmente adatti a compiere un certo lavoro perché sono piccoli di statura. Quindi oltre a uccidere e spennare le galline possono vivere dei pollai perché sono bassi e quindi ci entrano dentro. E il loro passatempo è quello di imitare le galline, quindi il loro è un ciclo continuo. Vivono spennando i polli, uccidendo i polli e mangiano gli avanzi che gli vengono dati di quei polli che loro trattano e lavorano per l'industriale svizzero, i cui figli vanno a cavallo nudi e appaiono come una sorta di visione paradisiaca dalla piccola stia del pollaio in cui donne, uomini, terroni guardano questa sorta di semidei, e per passare il tempo imitano le galline, giocano a fare le galline, fanno il verso le galline, quindi un ciclo continuo che autoalimenta la terronicità di queste persone. Perché parlo di terroni con questa leggerezza questa mattina e mi posso permettere di usare un termine dispregiativo? Per questo termine ha avuto una sua ricollocazione lessicale, è diventato una sorta di inno di rivolta, di sintesi di una condizione diversa di concepire il Sud, grazie ai libri di uno scrittore, di un giornalista che oramai da tempo parla di terroni come di una condizione dell'essere, non soltanto di come di persone che meritano una discriminazione perché sono nel grado ultimo delle considerazioni sociali nel nostro paese. Costui è Pino Aprile. Pino Aprile, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Giornalista, saggista, autore di un libro che occorre essere un po' terroni per pronunciare, che si chiama Terroni International, edizioni PM. Perché hai dovuto aggiungere alla tua lunga lista di libri sulla terronicità questo termine straniero, international, che bisogna essere capire come si pronuncia, pronuncia nella maniera giusta innanzitutto, perché non so se è giusta. Beh, no, è quasi corretto, cioè, international con proprio questa strascicata terronica. Cioè, non sei terrone, non puoi pronunciare il titolo del libro, bene, diciamo la verità. Si può imparare con un po' di esercizio, ma in realtà sa indicare, io ero combattuto fra Terroni International e Terroni e Terronen, per fare il verso, come dire, ai tedeschi, perché... Perché quella condizione non è una condizione, cioè, come tu dicevi prima, di discriminazione verso altri esseri umani, ovvero l'attività dell'abbassare, del diminuire la qualità umana dell'altro. Questo perché? Perché man mano che diminuisce la qualità umana dell'altro, diminuisce anche la colpa di quello che gli fai. Goebbels diceva che gli ebrei erano topi da derattizzare, quindi in quanto topi non c'era nessuna colpa nell'eliminarli. Quindi c'è questo messaggio subliminale nel film Pane e cioccolata. Gli svizzeri li tenevano nei pollai perché erano piccoli e davano meno nell'occhio, forse questo, nella loro coscienza? Eh sì, vengono assimilati agli animali. La frase di Goebbels, per esempio, l'ha usata Calderoli, ed era ministro della Repubblica, a proposito dei napoletani, che erano topi da derattizzare, cioè questa squalificazione dell'altro. E tu pensa non... che in Italia ci sono movimenti di opinione ideologici che tendono più a salvare i topi dagli stabulari degli istituti di ricerca che magari occuparsi del problema degli esseri umani? Ahimè, purtroppo è vero, ed è vero, il che è drammatico, perché attiene alla condizione umana e non alla condizione dell'italiano del nord o del sud, che questo è vero ovunque. Cioè questa squalificazione dell'umanità dell'altro non conosce davvero confini, non è una lingua, una cultura, attiene alla dimensione umana, tant'è che quell'International che c'è nel titolo si riferisce in particolare ai tedeschi dell'est e poi anche agli europei del sud. Ecco, in questo libro in particolare, innanzitutto invito il pubblico a dare il proprio contributo chiamando all'800 24 0024, possiamo ritirare fuori questa mattina tutto quello che già abbiamo detto in passato, tutte le volte che c'era Pino Aprile, rispetto a questa diversa percezione della realtà, ma diversa non perché ci siano realtà incolmabili tra loro o impossibilitate a trovare un punto di convergenza, perché Pino Aprile sta riscoprendo una specificità, il mondo come se fosse visto dal sud, e riscrive quello che è il punto di vista del mondo visto dal sud, e in particolare in questo ultimo libro parla di un sud di cui si parla poco, che ci sono delle lacune nella nostra storiografia. Qual è il sud che tratti in particolare in Terroni International? La Sardegna, perché nella storia raccontata, divulgata, diciamo ufficiale fra virgolette, anche se non dovrebbe esistere una storia ufficiale ma una storia e basta, la Sardegna è l'assente incredibile. Cioè, e dov'è la Sardegna? Allora, quando vai a vedere dov'era la Sardegna, vengono fuori delle cose che ti dicono che la Sardegna è stato il primo sud. La questione sarda precede la nascita della questione meridionale, che nasce con l'invasione. Ma pensa al paradosso, Propino, di questa tua lettura, che deve aver anticipato. Noi siamo stati governati da una casa regnante che erano anche re di Sardegna, non si capiva perché, ma erano anche re di Sardegna, almeno nel titolo c'era questo, e i sardi in sé, guai. Tu pensa, se prova a dire un sardo tu sei un terrone, poi dimmi qual è la sua reazione. Non si sentono in realtà dei meridionali? Sì, è controversa la cosa. Fra i sardi c'è chi dice: noi siamo stati i primi ad essere trattati così, ed è vero, la Sardegna era trattata come una colonia, persino peggio dal Piemonte, nonostante i Savoia, come tu ricordavi, fossero re solo grazie alla Sardegna, che era un regno. Però se andiamo sia ai dati economici sia a quelli geografici, la Sardegna sta fra la latitudine del Gargano e quella di Catanzaro. Sia del sud è chiaro, se no non sarebbe, diciamo, la California degli italiani, se non fosse così. Però non viene percepita come tale, è diversa, è lontana, e questo è stato un limite sia nella percezione sia nell'attenzione nei confronti di questa realtà. Sentiamo Enrico intanto, 800 24 0024. Se voi siete sardi è ancora più interessante questa mattina, perché l'analisi di Pino Aprile, terronologo per eccellenza nel nostro paese, tratta soprattutto di voi. Enrico, buongiorno. Buongiorno a lei. No, volevo fare un commento. Io sono di origine ligure, vivo in Veneto per motivi vari, e volevo dire che una certa mentalità, non vorrei associare la terronitudine all'ignoranza perché è sbagliato, comunque una certa mentalità negativa c'è anche al nord. Pensi che qui in Veneto la maggior parte delle persone sono convinti che Roma sia Sud Italia, quando mi sembra che in geografia ho studiato che fa parte del centro Italia, lei me lo può confermare, e considerano i romani terroni. Ora, dal punto di vista geografico, mi sembra che ci sia qualche errore e anche un grosso pregiudizio. Ma anche quello della considerazione di qualcuno che stia più a sud di te, quindi meriti la considerazione che diceva Pino Aprile, è molto relativa. A meno che non abiti al polo nord, c'è sempre qualcuno che sta più a sud di te. Bravo, come diceva Alex Drattico, dice, chiunque è meridionale a qualcuno, bisogna essere al polo nord per essere dei veri settentrionali. Sì, se poi vogliamo dare un valore all'essere nordico, non fa parte della mia cultura, però può andarci. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. Senta, niente, io avevo sentito l'inizio della trasmissione, ma mi sembra sia un po' fuori luogo paragonare una versione che c'è stata forse in passato verso i meridionali qui nel nord a Hitler, Goebbels e cose di questo genere, perché a parte che secondo me, da quel che io chiamo da Verona, è praticamente scomparso anche qui la versione verso i meridionali, c'era forse in passato la stessa Lega. E chi l'ha preso il posto dei meridionali? Gli emigrati? Sì, ma non so, adesso la polemica della Lega era contro Roma, intesa come capitale, non tanto contro i romani, ma come capitale parassitaria. Poi io non sono leghista, quindi non è che devo fare. No, ma figuriamoci, facciamo un'analisi al di sopra della politica in questo momento. Di quel che dice la Lega, ma insomma, la polemica contro Roma era una roba un po' diversa. Sì, però la polemica è sempre verso qualcuno che sta a sud rispetto a chi fa la polemica. Diciamo che effettivamente può esserci una polemica, cioè una avversione verso alcune etnie di extracomunitari che però non mi sembra. Però che sono ancora più terroni di terroni, stanno ancora più a sud, non mi stanno sembra, nel nord Africa. Sì, ma non mi sembra limitata solo al nord Italia questa cosa qui, ecco, dopo che sia giusta o sbagliata. Sì, è una trasmissione distesa, non si fa, nessuno è sul palco delle accuse, si analizzano dei dati. Ma anche uno della provincia di Varese è mal visto dai ticinesi. È perché stanno più a nord di lui. Ma anche Bergamo Bassa rispetto a Bergamo Alta, penso. Sono svizzeri, certo, ma questa roba qua non se ne esce più, a volte c'è anche molto folklore, insomma. Sì, ma ritorniamo al punto. Pino Aprile, hai sentito come in effetti il problema rimbalza, però devo dire che rispetto a altre trasmissioni leggo una percezione diversa anche nel pubblico. Forse ha ragione l'ultimo ascoltatore, è un po' uscito il terrone dal pantheon delle persone da disprezzare, ci sono altre urgenze in cui indirizzare la rabbia generalizzata, o sbaglio? No, ma tutto non accade per caso. Voglio dire, quelle frasi orribili sui topi da ratizzare, eccetera, quelle sono state delle, ha dette Calderoli, così come Salvini diceva scappano anche i cani per la puzza, arrivano i napoletani colerosi e terremotati. Il guaio è che lo diceva mentre all'Aquila scavavano per recuperare i corpi dei congiunti morti dalle macerie. Ma perché adesso, per esempio, quest'uso politico di una presunta diversità si è spostato dai meridionali agli extracomunitari, ai Roma? Abbiamo visto Salvini per esempio andare nei campi Roma, eccetera eccetera. Perché adesso si presenta la Lega come partito nazionale. Ora, si è dimenticato che Borghezio qualche anno Aspetta, fa... Aspetta Pino, non ti voglio interrompere, comincio un discorso, non voglio segartelo, ma devo mandare urgentemente il traffico, riprendiamo fra un istante, già c'è un'Elena, una signora sarda che ci chiama, quindi possiamo tornare nel campo, diciamo, di attenzione del tuo ultimo libro, che sono i sardi, sono i terroni international per eccellenza. Melog, cronache meridiane. Roberto, ho una buona e una cattiva notizia. Sono sospeso, vero? Peggio, trasferito. Al sud. Al sud, tipo Bologna? No, Bologna, sud. Non mi dire Roma, sai che non amo Roma. No, non ti preoccupare, non a Roma, molto più a sud. Sicilia? No, prima della Sicilia c'è la Campania. Sei stato trasferito vicino Napoli. A Napoli? Ma è spaventoso, Mario. Cominci lunedì. Ma dove mi mandano esattamente? A Castellambate. Ci resterai 2 anni. 2 anni? Minimo. 2 anni a Napoli, Mario? Senti, Alberto, o è sud o è licenziamento. 800 24 00 24, parliamo dell'ultimo libro di Pino Aprile, edizioni PM, Terroni International, un libro che parla della questione sarda, questione molto poco dibattuta quando si parla di sud, e su questo è d'accordo anche l'ascoltatrice Elena. Buongiorno Elena. Buongiorno, ci conosciamo ma non lo diciamo. Mi trovo d'accordo su quello che diceva lo scrittore, nel senso che rispetto alla sardità che mi vivo, nonostante viva a Roma, quella quotidiana, non mi sono mai sentita bistrattata, anzi al contrario, spesso e volentieri l'essere sarda mi ha favorito in varie occasioni. non lo so che cosa attribuirlo. Lei dice non sento, in quanto sarda, diciamo uscita fuori dall'alveo della propria regione natura, quel senso di discriminazione che in realtà sentono fortemente altri meridionali. Questa cosa assolutamente, tutti anche simpatici sono, poi vabbè, questa cosa che dicono che siamo diffidenti, ma poi una volta divenuto, ecco, ogni regione d'Italia ha i suoi stereotipi. Pensi una donna emiliana quando gira cosa le dicono dietro. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione e per la, in modo particolare per lei, per la sua grande cultura. Sì, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Io ho solo una curiosità, io sono torinese, vivo a Roma da tanti anni, quindi io sono diventato un po' il terrone al contrario. E la mia curiosità la volevo chiedere proprio allo scrittore, se ha qualche informazione sull'origine della parola terrone, perché noi a Torino si è sempre saputo che il termine terrone era rivolto ai napoletani, ai meridionali, in modo assolutamente dispregiativo. Ma una volta mi hanno raccontato che invece quella parola è nata a proposito, appunto, sempre a Torino, a proposito di immigrati che venivano dal Veneto e che sapevano che, essendo il Piemonte vicino alle montagne, non ci fosse la possibilità di coltivare. Loro erano quasi tutti contadini e quindi arrivavano con dei carretti con sacchi di terra. Volevo sapere se risultava l'etimologia. Allora, in aprile, nella preparazione del suo libro, parla del problema grosso che ha avuto quando doveva tradurre in inglese il termine terrone e non c'era un termine simile. Vediamo di rispondere sia alla signora sarda Pino, che dice: ma io non mi sono mai sentita discriminata come si può sentire un napoletano, un calabrese nei confronti di altri italiani, e il signore vuol sapere l'etimo della parola terrone. Sì, velocemente, il tipo di discriminazione, come dire, anche becera nei riguardi dei terroni, cose eccetera, verso la Sardegna è come dire, molto presente, diciamo, in letteratura, intendendo con questo i rapporti, le relazioni, i diari dei sabaudi, dei piemontesi, che dal 1720 colonizzano, il termine usato è proprio questo, la Sardegna. È un dato storico, non trasmesso nell'uso quotidiano, perché realmente un sardo viene mai discriminato in quanto sardo oggi, quando va nel continente, secondo me. No, tutt'al più viene dimenticato. Quando ero vice direttore settimanale Oggi, noi dimenticavamo di mettere la Sardegna nella cartina d'Italia. E un grande quotidiano, Repubblica, che fece degli allegati 800 pagine sulla preistoria italiana, dimenticò la Sardegna con i nuraghe, per dire che certe attenzioni si rivelano proprio quasi in maniera inconscia, te le dimentichi. Rispondere invece all'ascoltatore torinese romanizzato, ci sono tante possibili spiegazioni della parola terrone, perché tante sono venute fuori. Un collega che ha dedicato, se non sbaglio di Bergamo, che ha dedicato molto tempo a questa ricerca, mi spiegava che nasce per i bergamaschi che andavano, quelli delle valli, che andavano a lavorare a Milano ed erano così poveri che la sera scavavano una trincea nella terra, la riempivano di foglie e dormivano lì dentro, e per questo li chiamavano terroni. Ora, onestamente, non so dire quale delle varie dei vari suggerimenti come fonte della, però credo che non lo sappia a questo punto nessuno. Comunque è chiaro che è una fetta d'Italia che è ancora legata a una cultura agreste rispetto a un'altra Italia che si stava industrializzando, erano visti ancora come i contadini o quelli che lavoravano a terra. Ma vediamo se riusciamo a enucleare un po' quello che è il succo del tuo libro. Questa Sardegna dimenticata e vilipesa dai Savoia, che l'hanno spopolata. Un amico sardo mi ha detto: una volta eravamo tutta una foresta, si camminava a piedi da una costa all'altra della Sardegna, hanno portato via tutti gli alberi, siamo una terra brulla per fare le loro navi Savoia, è vero? Ma magari le navi, perché in realtà la flotta poi non la fecero, cioè la Sardegna venne deforestata per il legno. E le concessioni venivano date solo a forestieri. Pensa che le concessioni minerarie, perché la Sardegna è uno scrigno di risorse minerarie, su 400 una sola un sardo. E a un gruppo, per esempio, in particolare quel gruppo di speculatori genovesi, di finanzieri eccetera, molto importante, aveva come socio un ministro del governo piemontese che attraverso il governo faceva dare le concessioni a questo gruppo che poi speculava in Sardegna. Il ministro era Cavour. cioè altro che conflitto di interessi. Quando si fece l'Unità d'Italia, la Sardegna era l'unica che non aveva un metro di ferrovie, aveva il più alto indice di analfabetismo in Italia, il 90%. La cosa divertente qual è? Che Giorgio Bocca, per spiegare perché il sud d'Italia, il Regno di Sicilia, era arretrato, dice la Sardegna aveva il più alto indice di analfabeti. Beh, ma mica dipendeva dal Regno di Sicilia, dipendeva dai Savoia. Quindi diciamo tutta la forza del nostro risorgimento, della dinastia che ci ha portato ad essere un paese unito, è fatta sulla spoliazione selvaggia della Sardegna, la vera colonia dell'Italia è la Sardegna, ancor prima che lo fosse l'Abissinia, la Libia. Esatto, cioè prima della Sardegna, poi il metodo è stato esteso al sud d'Italia continentale e oggi quel metodo pari è applicato in Germania Est, che gli analisti tedeschi dicono paragonare oggi la Germania Est al mezzogiorno d'Italia e farle un complimento esagerato. Un tedesco orientale ogni due vive di sussidi statali, erano la maggiore potenza industriale del blocco dell'Est, in meno di due anni sono stati superati da tutti gli altri paesi dell'est, grazie a una, queste non sono parole mie, ma di economisti tedeschi, distruzione di ricchezza mai avvenuta nella storia in tempo di pace e rarissima anche in tempo di guerra. Quindi guardate, leggete il libro di Pino Aprile, non è soltanto un libro che parla di un nostro passato storico, ma è una chiave di lettura interessante, perché la storia ha corsi e ricorsi di quello che sta accadendo anche in altre parti della nostra amata e idolatrata Europa. Grazie Pino Aprile, alla prossima!